si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Ed eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Quando sono le 8:34 minuti, riprende una nuova diretta, il buongiorno di Radio 24 nel weekend. Si può fare, Carlo, Milano Monterosa? È quel periodo dell'anno dove la mattina fa troppo freddo e quindi a me mi viene solamente da dire fa freddissimo, ovviamente. Poi durante la giornata, come ieri che ho detto fa freddissimo, qualcuno ha detto ma ci sono 15 gradi adesso, in realtà, alle 10 di mattina, a mezzogiorno forse, ma insomma la mattina esatto intorno alle 6:15 fa veramente molto freddo. 800 24 00 24, vi aspettiamo non per parlare del tempo naturalmente ma per commentare con noi le notizie della settimana, perché come sapete nella puntata della domenica ripercorriamo un po' quello che è accaduto, alcune cose compatibilmente coi tempi, possiamo fare l'enciclopedia. Io mi informo qui, informo qui con gli audio. Un po' di cose le risentiamo, poi sempre a caccia di buone pratiche quando possibile e naturalmente anche a caccia di un personaggio della settimana. Cari ascoltatori, anche oggi ci sono i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano in palio per il primo che indovina il personaggio. Devi dare anche un indizio, quindi. Devi dare un indizio. O andiamo senza indizio per il primo quarto d'ora. Lo facciamo telepatico? Telepatia questa mattina. No, dai. Allora, il primo indizio è questo. Il personaggio è finito al centro dell'attenzione. Può sembrare un indizio vago, ma non ma è così. Lo è. Non è così, non è così. 800 24 00 24. Vai. Io sento il dovere di contribuire con la mia capacità di studio, con la mia capacità di analisi, con la mia capacità di coinvolgere le tante persone, e le voglio ringraziare, da coloro che su Facebook, da coloro che sono qua di parte civile, di Io sto con Marino, i Marziani in Movimento, ma tutti quelli che in tutto il mondo, oggi mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto quasi sorridere, è dal preside di una grande università americana che ha detto adesso dobbiamo lanciare un movimento degli Stati Uniti d'America per Marino. E poi la frase continuava, mi pare eccessivo, lui stesso lo diceva, in effetti sarebbe sembrato eccessivo un po' a tutti. Allora questa era Marino. A ritorno, però, bisogna dire assolto. A me fa piacere di sentirlo dopo che ne abbiamo parlato tanto per la questione degli scontrini, che comunque sembrava un po' costruita d'arte in un momento in cui Marino doveva andare via. Ci avevano già provato in tanti altri modi, quindi mi sembra giusto anche il risalto che si sta dando a, forse per la prima volta si sta dando così tanto risalto a una soluzione assolto, che invece è corretto. Anche Roberto Cota, bisogna dirlo, il governatore. L'ex governatore del Piemonte, sulla questione similare dei famosi mutandoni, delle mutande verdi comprati con i soldi, insomma, dei rimborsi elettorali, tutti e due assolti. Che dire? No, una cosa si può dire, che qualcosa di strano c'è, nel senso, come fa un pubblico ministero a chiedere 3 anni? Poi dopo, nel processo, si giunge alla conclusione che il fatto non sussiste. Allora, o c'è qualcosa di sbagliato nel processo, o c'è qualcosa di sbagliato nelle leggi italiane, o c'è stato qualcosa di sbagliato nel modo in cui è nata questa vicenda, qualcosa che non torna da qualche parte, sembrerebbe esserci. Ma questa settimana, sempre su Roma, ci lascia in eredità anche la prima intervista televisiva dell'assessore di Roma all'ambiente, contestatissimo perché indagata, ma anche perché sembra un po' un'aliena rispetto al programma elettorale ambientale del Movimento 5 Stelle. Dal marziano all'aliena, volevi dire. Esatto, siamo più o meno in quel campo lì. Paola Muraro, sentiamola, come spiega il fatto, come lei sia entrata in contatto anche con Virginia Raggi, lei che appunto è stata, si è occupata di scariche, è stata consulente di Maglio Cerroni, cioè tutto un mondo lontanissimo al Movimento 5 Stelle. Com'è piombata in quell'universo? Sentiamo come risponde a Formigli. Quando mi ha chiamato Virginia, la prima cosa che mi ha detto è stato: hai letto il programma, l'avevo letto. Non si tratta di essere un politico, si tratta di avere buon senso, perché i cittadini vogliono determinati servizi. C'è un modo o un altro di risolvere il problema dei rifiuti. Lei sa che il Movimento 5 Stelle sono nati politicamente proprio sul ciclo dei rifiuti. Certo. C'era il tema dei rifiuti zero, quindi niente più cassonetti, niente più tritovagliatori. No, no, no. Lei invece si presenta come la signora che svuota i cassonetti magari li porta anche alla discarica ai tritovagliatori di Cerroni. Ecco, c'è da dire anche lì, io non mi sono occupata di raccolta rifiuti, quindi è un po' diversa la cosa. Mi occupo di trattamento rifiuti, di recupero. Ma zero rifiuti, rifiuti zero, che è un po' l'utopia, diciamo, l'approdo ultimo, diciamo, della politica grigia sui rifiuti, a Roma è possibile oppure no? No, al momento no, in modo transitorio stiamo affrontando l'emergenza, se così si può dire, di non avere un sistema, diciamo, omogeneo nella città. E questo è il problema grosso. Insomma, avete sentito, lei dice rifiuti zero, al momento no, non si può fare, vedremo poi in una fase transitoria, ci lavoreremo, insomma sembra di essere tornati un po' alle vecchie solfe, devo dire la verità. Un po' alle vecchie solfe, un po' soprattutto questo concetto di si tratta di avere buon senso è sempre un po' complicato, nel senso che da un lato può sembrare un bel faro, una bella possibilità, però non è la soluzione, il buon senso non è una bella soluzione. Nel momento che tu chiedi a un politico, dici ma come si farà sta cosa qua, col buon senso, dopo un po' dici sì, ma vorrei qualcosa di un po' più pratico del buon senso. Però la canzone che sentite in sottofondo di Biagio Antonacci, Lavorerò, è il manifesto dell'iniziativa di cui parliamo adesso, perché oggi è la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. C'è una buona notizia che riguarda la Lombardia, ma potrebbe, perché no, essere apripista anche per altre esperienze nel resto d'Italia. È con noi Chiara Laghi, project manager del progetto Wow Wonderful Work. Buongiorno. Buongiorno. E buona domenica. Allora, il progetto è questo. Farmacie di Milano, Monza e Lodi pronte ad accogliere per dei tirocini formativi che poi lasciano spazio anche a un inserimento lavorativo. Questo è l'obiettivo, lo scopo, insomma, un inserimento lavorativo a scopo terapeutico, naturalmente, di persone, di ragazzi con sindrome di Down. Una bellissima notizia, perché sappiamo che il lavoro è sempre un tema importante per questi ragazzi, che possono dare moltissimo. Chiara, ci racconta il progetto? Sì, allora il progetto ha lo scopo di includere i ragazzi in un ambiente lavorativo, non tanto a scopo terapeutico, ma per loro è una grande opportunità di vera inclusione e di vero lavoro. Il punto di vista non è assistenzialista o paternalistico, ma proprio inclusivo, e quindi gli vogliamo dare la possibilità di dimostrare che possono lavorare e che hanno le carte in regola per dare un contributo non solo in termini di performance, ma anche per tutto l'ambiente lavorativo, quindi per il farmacista che si troverà a gestire un membro della sua squadra con tempi diversi, con risposte diverse, e dovrà imparare a dialogare con lui e a rispettare i suoi tempi. E speriamo che questa esperienza poi gli insegni a rispettare i tempi di ciascuno, a imparare a dialogare meglio anche con bambini e anziani, per esempio, che hanno, come le persone con sindrome di Down, tempi diversi. E allo stesso tempo speriamo che aiuti anche l'innovazione e il problem solving, perché confrontarsi con la disabilità accende, muove delle leve nelle persone che poi portano ad essere più innovativi, a trovare nuove strategie e nuove soluzioni. Ma mi chiedevo come mai le farmacie, nel senso che è sempre bello, e ci sono tante altre occasioni in cui abbiamo visto l'inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down. Ho presente diversi ristoranti, sono stato anche personalmente in diversi posti, ma mi chiedevo come mai la scelta della farmacia. Beh, perché non tutti hanno piacere di lavorare al ristorante, giusto, hanno giusto, tipo di competenze e quindi c'era bisogno di trovare un luogo adeguato anche a persone che avessero più competenze nell'ambito magazzino, logistica, gestione del PC, del magazzino anche attraverso il PC, e la farmacia aveva questo ruolo. e in più c'è una certa capillarità sul territorio che permette alle persone di raggiungerlo facilmente e di avere anche un certo numero di adesioni per attivare anche un numero importante di tirocini. Oltre a questo c'è il fattore culturale. In farmacia passano tantissime persone di tutte le generazioni e di tutti i sessi. È molto facile comunicare a tutti che è possibile l'inclusione lavorativa mettendo proprio lì una persona che lavora. Sì, facendo vedere che c'è una persona al lavoro. Mi chiedevo se c'era una scelta, nel senso che anche in edicola passano un sacco di persone, anche in metropolitana passano un sacco di persone, anche al ristorante come dicevamo prima, quindi non è che la farmacia, cioè se c'era un motivo per cui mi immaginavo anche la scena di uno che arriva in farmacia ed è servito, in realtà no, perché si parla più di magazzino, giusto? No, sì. Sì, giusto. Sì. Ma no, a me piaceva anche invece che uno venisse servito, mi sembrava molto bello. Non è possibile perché in farmacia è necessario essere laureati. Certo, certo. Però può essere a contatto con le persone, alcuni farmacisti ci hanno indicato anche ruoli diversi da quello del magazzino, per esempio la distribuzione dei campioncini, spesso non c'è una persona che riesce a dedicare tempo a questa attività commerciale. E qualcuno ci ha chiesto se la persona con sindrome di Down che andavamo a selezionare poteva avere competenze anche in ambito più relazionale, quindi essere a contatto con la clientela per distribuire i campioncini. Certo. Senta, io chiaro, ho detto prima scopo terapeutico, mi sono espresso forse male, ma intendevo dire nel senso che è un inserimento, come diceva lei, che porta all'inclusività e che quindi fa bene, al di là poi dell'aspetto lavorativo in senso stretto, che comunque è importante. Quanti casi ci sono in Italia come questi? Quante volte si riesce a fare progetti come di questo tipo di inclusione lavorativa di ragazzi con sindrome di Down? È una cosa che interessa, perché qua parliamo di Milano, Monza e Lodi, siamo contenti, ci fa piacere, ma l'Italia è grande e vorremmo, se possibile, qualche altra notizia, un po' di incoraggiamento anche più in generale per chi magari ci sta ascoltando. Noi vorremmo crescere e quindi cercare di dare possibilità a tutto il territorio nazionale di avere di attivare dei tirocini in farmacia. Detto questo, esiste anche il progetto HOMO, che si chiama HOMO Malwork, è un progetto internazionale, in Italia è guidato dall'Associazione Italiana Persone Down e loro fanno la stessa cosa nei ristoranti, negli alberghi, propongono di uscire un po' dagli schemi dell'assistenza sociale e parlano invece di inclusione. Quante sono per il momento, invece, tanto per tornare al progetto di cui abbiamo appena parlato, che vede coinvolta anche Federpharma Milano, quante sono le farmacie della zona coinvolte in questo progetto, Chiara? Allora, ci hanno dato disponibilità per ora, nella prima fase, nella fase pilota, 10 farmacie. 5 partiranno nel prossimo trimestre e 5 partiranno successivamente, con l'accoglienza di questi tirocini. Noi speriamo, comunicando nel modo giusto come sono andate le cose, intervistando i ragazzi, permettendo ai farmacisti e ai ragazzi di esprimere il loro pensiero su come è andata questa iniziativa e come si sono trovati, di attivarne molte altre, perché naturalmente saranno, speriamo, esperienze di successo. Benissimo, grazie intanto per averci portato questo raggio di luce questa domenica mattina. Chiara Laghi del progetto Wow Wonderful World, che avete appena sentito, l'inserimento lavorativo in alcune farmacie di Milano e dintorni da parte di ragazzi con sindrome di Down. Oggi è la giornata delle nazionali delle persone con sindrome di Down. Chiamateci se volete raccontarci anche la vostra storia, 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I don't care how sick you are. I don't care if you just came back from the doctor and he gave you the worst possible prognosis, meaning it's over. You won't be around in 2 weeks. Doesn't matter. Hang out till November 8th. Get out and vote. And then all we're going to say is, We love you and we will remember you always. Get out and vote. Cioè, non so se avete capito, questa era Donald Trump, perché questa è passata un po' sotto silenzio. Ora, va bene le frasi sul fatto che una star può baciare chiunque, può andare a va letto bene, chiunque. No, no, vabbè, va bene, detto se l'abbiamo sentito. È un audio rubato, ci può stare, insomma, non so con chi stesse parlando, ma qua stava parlando in pubblico, in un convegno, e sapete, hai sentito cosa ha detto? Ha detto, era una battuta, però l'ha detto. Hai capito cosa ha detto? Ai malati terminali ha detto... Potete anche morire dopo l'8 novembre, però intanto votate e noi ci ricorderemo di voi. Ha detto, mi raccomando, non morite prima delle votazioni. Vabbè, e questa era Donald Trump. Era una battuta, però era veramente... No, non è anche di cattivo gusto, non... No, so, il problema è che non se ne legge l'ironia, perché volendo può anche essere una battuta, ma il problema è che lui insiste molto su questo punto, insiste molto sul fatto di dire andate a votare e poi dopo potete fare quello che volete, ma insomma. De Gustibus, Maria Teresa da Padova, buongiorno, 800 24 00 24. Vi ricordo che cerchiamo anche un personaggio della settimana che è finito al centro dell'attenzione. Maria Teresa. Sì, mio era Trump. Ah, proprio il nostro Donald Trump, abbiamo appena parlato. Sì. Per quale notizia? Così cioè, sono sempre siamo curiosi. Le sue uscite non sempre felici verso le donne. Sì. Tutte queste. Esattamente, il tema di cui stavamo parlando poco fa è la notizia, ce n'è tantissime, ma non siamo riusciti a trovare un si può fare all'interno di tutto ciò e quindi non è il nostro personaggio. Non era lui che avevamo pensato. Grazie. Maria Teresa per aver chiamato comunque. E in effetti, insomma, ci avevamo pensato anche noi a rinfrescare le notizie su Trump, ma il gioco serve anche a questo. Grazia da Parma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, grazie. Su cosa volevi intervenire? Io volevo dare la soluzione. Ottimo. Sì. Allora, secondo me è l'uragano Matthew. Certo, l'uragano Matthew, l'uragano che si è abbattuto sul Centro America e che ha fatto molte vittime ad Haiti soprattutto. Certo, la notizia quindi è ovvio il motivo e poi anche perché spesso voi date delle soluzioni... personificando. Sì, che non sono necessariamente persone umane, insomma. E allora ho pensato che fosse protagonista e poi il centro mi richiamava un po' l'occhio del ciclone. Assolutamente, grazie. Ma non è il personaggio che avevamo scelto, ma la ringraziamo. Non era l'uragano Matthew che ha fatto tante, tante vittime, quasi 1000 ad Haiti. Soprattutto perché è un paese già disastrato, un paese molto povero, perché lo stesso effetto non avrebbe avuto sicuramente sulle coste americane, quando però già è arrivato un po' depotenziato. È un altro il personaggio che andiamo cercando. Come ha ricordato l'ascoltatrice, anche se forse non si sentiva tanto bene, noi non cerchiamo sempre personaggi che sono degli esseri umani, quindi la risposta era tecnicamente perfetta, ma nello specifico non era la risposta esatta. Ci poteva anche stare. Allora, adesso sentiamo qualche altra voce di settimana. Andiamo con c'è stato un atteso faccia a faccia in televisione sul tema della riforma costituzionale e a scontarsi sono stati Maria Elena Boschi e Matteo Salvini. Sono uscite tante cose e ve ne facciamo sentire una. Da qui al 4 dicembre ci diranno che se si vota sì il Milan vince lo scudetto, su quello saremo d'accordo, almeno siamo tutti e due milanisti, tutti belli, simpatici, una cosa ce l'abbiamo. No, purtroppo molte delle cose che Renzi e la Boschi vanno Milan raccontando, no, sono milanista soprattutto anch'io. E questo ci mancherebbe, appunto, questo almeno si unisce. Due cose ci legano, anzi tre: il liceo classico, il Milan, e che sul quesito siamo d'accordo che va bene così. Oh, bene. Questa la Boschi se l'era preparata, secondo me. È stata brava, però. È stata brava su questo. Perché è riuscito a interrompere sul calcio. È lui che non ci voleva cadere. Che no, ma cosa c'entra? Ma io. E lei, ma come? Neanche sul Milan siamo d'accordo. Ma poi pare che in un fuori onda poi Salvini abbia invitato la Boschi a San Siro. Ma a margine di tutto questo si è discusso anche di quanto pesino gli appelli delle personalità del mondo dello spettacolo. Per esempio, come quello fatto da Roberto Benigni, ce ne sono molti che hanno invitato a votare no, e lui ha invitato a votare sì. Sentiamo Benigni. Però se era bella, no? No. Vincendo il no. Ma, no, ma i costituenti rimane... stessi hanno detto riformatela, per carità. Loro stesso hanno auspicato. Dovete riformarla la seconda parte. Prima o poi. Questo era il momento. Prima o poi. Era il momento. Poi c'è la maniera di migliorarla, ma se non si parte, non, si, non è che non è come si dice, ah, se non la riformo la riformeremo. No, non accadrà mai più. Ma sono battute, i Benigni e gli altri farebbero bene a lasciar perdere, cioè che facciano il loro mestiere, pietà di me. Non ne posso più di sentire appunto anche i Benigni eccetera, parlare di Costituzione, parlare di tutto, è merda. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana che è finito al centro dell'attenzione, vi aspettiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Eccoci qua, 9-8 minuti, di nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, abbiamo un po' di messaggi, per esempio su Twitter Roberto Corti scrive: difficile ascoltare uno più imbecille di Marino. Poi si corregge: mi sbagliavo, Donald Trump è più imbecille di Marino. E poi ancora: il mestiere di Cacciari è quello di pontificare su tutto, perché sono queste le voci che abbiamo fatto sentire in apertura. E questo è un po' l'ascoltatore, è Napal 51, il nuovo personaggio di Crozza. Questa bellissimo, bellissimo. Roberto, te lo dedichiamo, sentiamolo Crozza, vai. Cosa ha fatto Gianni Morandi? Ma no, ho postato buono. Una foto di lui che raccoglie le fragole. E quindi? Adesso glielo faccio vedere io. Ma perché? Pezza di no, merda. Ma non scrivi, bravo Gianni, non scrivi vantati niente. Pure. Ma e chi è allergico alle fragole, non ci pensi? Ma come, non è colpa sua, non e chi non ha le dita per raccoglierle? Ma con fanculo, il mondo deve sapere. Con chi ce l'ha, scusi, guardi di qua. Con un consigliere comunale di Asti. Una merda, uno schifo. Perché? Ha messo una foto di lui che dona il sangue. È facile donare il sangue per un politico. Cosa c'è? Io, che sono un cittadino comune, quando dono il sangue non lo sbandiera ai 420. Vabbè, ma che, lei è andato a donare il sangue? Stavo per andare a donare il sangue. Ah. Solo che la lobby... del Big Pharma, chi ha messo il prelievo alle 8 del mattino? Un personaggio stupendo, sto molto bello. Per chi l'ha visto e non solamente ascoltato, direi che la citazione anche al personaggio di John Goodman nel Grande Lebowski è chiarissima. Lui è vestito così e già era un personaggio molto divertente, quello del Grande Lebowski. E quindi questo personaggio, l'odiatore, lo hater, come si dice su internet, che a qualunque cosa... Roberto, noi te lo dedichiamo, ma insomma stiamo scherzando naturalmente, però sono tanti quelli che su Twitter, sempre di più, su Facebook, su Twitter, come unico divertimento c'è quello lì, insomma, di scaricare napalm, veleno su tutto. Non è il nostro universo, quello lì, Carlo, però insomma è bella, l'imitazione di Crozza è bella. Allora, andiamo con gli ascoltatori. Prima di avere, dopo il traffico, il super ospite, adesso c'è Cristina che chiama da Bergamo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Cristina. Dunque, per me il personaggio è Benigni. Sì, per quale notizia di questa settimana? Per quale motivo l'hai scelto? Perché è stato intervistato, se non sbaglio, dalle Iene e si è dichiarato apertamente, diciamo, per il sì al referendum costituzionale di nuovo e... scatenando, come dire, se ne è parlato abbastanza, sì, scatenando le reazioni di chi dice ma lo criticano perché non dovrebbe intervenire, perché è venduto. Vabbè, diciamo sarebbe venduto, ecco, sì, questa è la critica che viene fatta. Sì, come al solito chi da una parte si schiera apertamente per i nodi, cioè che viene, non so, pagato dai 5 Stelle, mentre lui viene prezzolato dal PD, insomma, la critica è sempre quella. La critica è da Berlinguer a Renzi, direi, perché insomma Benigni ha una storia alle spalle che forse sta un po' rinnegando lui, ma comunque in questo momento direi che è diventato più governativo, ecco. Sì, diciamo anche per lo spettacolo sulla Costituzione, insomma, che dice la Costituzione più bella del mondo, poi invece si schiera per il sì. anche se lui si dichiarava per, diciamo, i primi 12 articoli in particolare, poi contro Berlusconi era non va cambiato, esatto, in nessun modo, adesso invece va bene cambiarla. Invece adesso un po' sì, quindi insomma una serie di critiche. Le motivazioni ci sono, c'erano, tutte. Infatti noi stessi abbiamo fatto sentire prima le parole di Benigni, che si è addirittura spinto oltre dicendo che se si vota no sarà peggio della Brexit, ma non è lui il personaggio, sì, che avevamo scelto. No, non è lui. Non è lui. Va bene, però grazie per aver chiamato, grazie mille. Grazie Cristina. Scherzava quando diceva, era ironico quando diceva che sarà peggio della Brexit, eh? Ha mica preso sul serio. Ma non lo so, non ho capito l'intervento. Davide da Modena, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, ciao a tutti. E secondo me il personaggio è Fabrizio Corona. Per quale motivo? Perché non ce la può fare, nel senso che anche quando... Neanche noi, a dire la verità, a seguire le vicende di Copazzo. Nel senso che quando ci prova a mettersi a posto, alla fine ne combina sempre un'altra. Questa volta sembra che gli abbiano trovato dei gran contanti in nero in un intercapelli del muro, proprio una cosa... Così, che mi ha fatto sorridere, ho pensato che potesse essere lui il personaggio del giorno. E ci stava, della settimana. Ha fatto un po' sorridere, un po' arrabbiare, sì, della settimana. Beh, è un personaggio sicuramente mediatico, molto. C'era questa notizia questa settimana, ma non era lui il personaggio a cui avevamo pensato noi, è un altro, il personaggio che è finito al centro dell'attenzione. Andiamo con Emanuela, che chiama da Milano. Tantissime chiamate oggi, Emanuela. Sì, buongiorno. Buongiorno. Per me il personaggio è Elena Ferrante. Elena Ferrante, sì, e perché? Specifichiamo perché? Qualcosa su Elena Ferrante, perché magari non tutti sono al corrente di questa vicenda. Beh, è una scrittrice, però scrive sotto pseudonimo e non si sa ancora chi c'è dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante. E questa settimana c'è stato un giornalista che ha cercato di smascherare l'identità con un'inchiesta che è stata un po'... Come no, un giornalista, tra l'altro, del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore ha fatto un'inchiesta. Elena Ferrante è forse la scrittrice italiana in questo momento più famosa al mondo, o forse la scrittrice in generale più famosa al mondo in questo momento. È proprio una febbre Elena Ferrante anche negli Stati Uniti. E il giornalista ha fatto un'inchiesta molto puntuale, addirittura su i guadagni e i possibili introiti, e ha identificato in Anita Raia la scrittrice Elena Ferrante. Anita Raia non ha rilasciato nessuna dichiarazione, quindi la notizia sicuramente di questa settimana è stata enorme, molto seguita, ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Ma ringraziamo molto di questa chiamata, così abbiamo potuto ricordare questa notizia. Milena da Lecce, ciao Emanuela, grazie, ciao. Milena da Lecce, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Il personaggio che vorrei fosse è Stefano Stefano Cucchi, per quale notizia della settimana? Certamente no, Stefano questa Cucchi. Questa settimana abbiamo avuto l'ennesima riprova di quanto sia difficile che la giustizia, diciamo, per la giustizia punire tutti nello stesso modo. Le persone che l'hanno ucciso praticamente non sono ancora state punite. Lui, insieme al G8 di Genova, al Trovandi, tanti altri, sono una pagina nera e vergognosa per me che va ricordata. Questa settimana abbiamo avuto l'ennesima inutile sentenza. Sì, ci sono state le motivazioni della sentenza che ha assolto i medici e parlava di... prima c'è stata la perizia. In realtà la perizia che parlava di epilessia come possibile causa e poi di inanizione, cioè di malnutrizione, scarsa idratazione come cause della morte. Molti sono saltati sulla sedia perché naturalmente sembra di sognare, aveva dei lividi addosso e quindi non si capisce bene. Comunque, la notizia l'hai insomma in qualche modo ripercorsa tu, Milena, con le tue parole. Grazie per averci chiamato, però non era lui il personaggio della settimana, ma siamo molto contenti di averlo ricordato, anche perché direi che è assolutamente un non si può fare, non si deve fare. Restate connessi perché tra poco vi diamo un altro indizio per il personaggio della settimana, dopo il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday, il vero motivo per cui dobbiamo rendere questo paese più semplice. Per permettere non necessariamente ai ragazzi di non andarsene, ma poi di tornare. Ma almeno di avere, se vogliono, la possibilità di tornare. Rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, forse più correttamente a 40 o 50 anni fa, dove dal sud si arrivava a Torino, oggi la migrazione è una migrazione che è innanzitutto europea. Quindi non mi stupisce il dato europeo. È fisiologico, c'è uno scambio continuo. E tra l'altro ci sono anche diversi ragazzi che noi attraiamo, ma molti meno di quello che potremmo. Perché noi abbiamo vissuto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, sostanzialmente con un atteggiamento di rassegnazione. Allora, cari ascoltatori, intanto vi diamo un altro indizio per cercare il personaggio di questa settimana, che non soltanto è finito al centro dell'attenzione, ma è fedele. Questo è il secondo indizio. E il nostro personaggio è fedele. Pensateci, 800 24 00 24. Abbiamo sentito la voce di Renzi a proposito del rapporto migrante. Se è una delle notizie di questa settimana, il rapporto che ci segnala il fatto che crescono, sono sempre di più gli italiani che si trasferiscono all'estero. Sono oltre 100.000 quelli che si sono trasferiti nell'ultimo anno, e ne parliamo con Domenico De Masi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccolo qua di nuovo con noi. Buona domenica, grazie per esserci di nuovo, De Masi. Sì, sì. Questa è una questione ricorrente, questa questione della fuga dei cervelli, del fatto dell'Italia che perde i propri talenti, eccetera. È così, oppure, come qualcuno segnala ogni tanto sotto, diciamo, la grande questione della fuga dei cervelli, qualcuno dice: ma insomma, è normale che in un mercato europeo, per esempio, molti vanno in Inghilterra, in un mercato delle persone che circolano, dei cervelli, si va a fare un'esperienza all'estero. Lei che ne pensa? Ma intanto è difficile capire cosa si intenda per cervelli. Di solito mi pare di capire che si intenda laureati, così tu, cioè, se espatria un laureato è un cervello, mentre se espatria, che so, una persona dotata di quinta elementare o terza media o diploma, è un espatriano solo le gambe senza il cervello. Comunque bisogna tenere conto del fatto che ormai l'Europa è un mercato aperto di cervelli fin dalla fase della preparazione, perché con il sistema Erasmus, che è una delle poche cose riuscitissime della Unione Europea, ormai migliaia di giovani studiano altrove, migliaia di italiani possono fare un anno in altre università della Unione e gli esami fatti in queste università vengono riconosciuti da noi. Però senza prendere la residenza, quindi questi tecnicamente non contano come emigranti, come giusto? Fuga dei cervelli. Mi pare di capire che per fuga dei cervelli si intenda non solo quelli che prendono la residenza altrove. Comunque, anche se consideriamo questi, il problema è il bilancio, diciamo, la bilancia di questi spostamenti, cioè sono più i laureati che arrivano in Italia o sono più i laureati che partono dall'Italia? Allora, se consideriamo i laureati che arrivano in Italia, la nostra bilancia dei pagamenti è fortemente attiva. Lo scorso anno sono giunti dal terzo mondo in Italia, mi pare, 94.000 laureati e ne sono partiti solo 6.000. Naturalmente poi questi laureati, che vengono ingrappati sui barconi, vengono adibiti da noi a fare il lavapiatti e così di seguito, mentre i laureati italiani che vanno all'estero almeno tendono ad avere un posto da laureati. Quindi lei mi sta paragonando però, De Masi, l'immigrato sul barcone con il laureato italiano che va a Londra. Il cervello sul barcone che ha studiato in una università spesso migliore delle nostre. Certo. Perché le nostre ci vuole poco a essere superate. Tenga conto che poi noi abbiamo un deficit complessivo di laureati. Oggi un'area, diciamo, moderna, di tutta l'Europa, di tutti gli Stati Uniti, dell'Asia, è un'area che si considera avere intorno al 50% dei cittadini adulti laureati. Quando un'area è così composta, ha una serie di caratteristiche positive, cioè alti stipendi, bassa criminalità, basso numero di divorzi, alta percentuale di persone che votano, alta qualità della vita e soprattutto delle strutture culturali. Quando invece un'area ha una percentuale di laureati al di sotto del 20%, tutte queste caratteristiche sono opposte, cioè alta criminalità, bassa percentuale di votanti, bassa qualità della vita e così di seguito. L'Italia ha il 13% di laureati, quindi è una percentuale, diciamo, da terzo mondo. Sotto questo aspetto, un laureato che arriva sui barconi e un laureato che invece parte in aereo dall'Italia più o meno si equivalgono dal punto di vista qualitativo. Sarebbe interessante un dibattito De Masi-Salvini su questo argomento, perché lei sa di scatenare ovviamente la reazione di tantissimi che non pensano lontanamente che invece sui barconi possano arrivare addirittura delle risorse umane, come lei sta dicendo. Però se queste sono le statistiche sui laureati... Ma quelle sono sempre risorse umane, anche quando... Certo. Anche quando non sono laureati, giusto? Ma noi, siccome li vediamo arrivare in quel modo a Fiumicino o alla Malpensa con 24 ore e valigia di Vuitton, pensiamo che siano degli analfabeti, il che non è. Tenga conto che nel frattempo, diciamo a partire dagli anni 80, molti paesi del terzo mondo hanno fatto sforzi enormi per migliorare la qualità dei loro atenei, hanno chiamato spesso professori dal primo mondo pagandoli in modo profumato. Io stesso vado spesso a tenere corsi di formazione in paesi del terzo mondo e quindi noi non abbiamo ormai una posizione di privilegio come crediamo. Lei pensi che su 100 giovani in età universitaria, cioè di età compresa tra i 19 e i 25 sì. anni, noi abbiamo 36 giovani che vanno all'università contro circa 90% negli Stati Uniti. Ancora di più nella Corea del Sud. Ma forse però De Masi, scusi, è proprio questo il punto, cioè quelli che arrivano da noi sono spinti più che altro dalla disperazione, quelli che invece partono dall'Italia sono spinti dall'attrattività, dalla disperazione, dalla disperazione ma anche dal fatto che Londra offre loro qualche cosa per ma le loro aspettative. Che cosa offre Londra? Questo è tutto un Londra o i paesi dove vanno queste persone. Guardi, io ci vado a Londra, ci sono un sacco di ragazzi italiani che sono andati lì, non hanno il coraggio di tornare. Ma fanno i camerieri. Sì, questo è anche vero, questo anche vero. Non è per tutti così, però c'è anche sicuramente questo. Io per esempio a Londra ho fatto il cameriere. Sì. Infatti sono venuto via abbastanza in fretta. E pare che manchi molto a Londra come cameriere. Si dice che si stanno aspettando. Ma mi scusi, ma quindi in pratica, se non sbaglio, sta dicendo che non c'è molto da preoccuparsi del fatto che 100.000 italiani nel 2015 sono andati a vivere, diciamo hanno preso la residenza all'estero, di cui 40.000 di questi sono giovani o molto giovani. Ma c'è da preoccuparsi, ma non più di tanto, cioè la circolazione all'interno dell'Europa deve diventare continua, deve essere un fatto naturale, molto più naturale che andare dal sud al nord dello stesso paese. Naturalmente si tratta di capire... Noi abbiamo entrambe le cose, direi. Quanti ne attiriamo, ma per esempio per quanto riguarda l'università, io mi meraviglio anche dei pochissimi che vengono da noi, perché vengono trattati in modo così burocraticamente increscioso che lei non può immaginare. Io sono stato preside di una facoltà abbastanza grossa di 15.000 studenti qui alla Sapienza di Roma. Non puoi immaginare com'è complicata l'accettazione di un giovane straniero. Sono complicate tutte le regole già sulla carta e gli vengono anche spiegate molto male di solito. Io posso testimoniare del contrario quando mi sono recato io all'estero in Francia come studente e sono stato accolto molto bene, anzi li ringrazio ancora tutti. Senta De Masi, siccome noi siamo Si Può Fare e cerchiamo sempre il bicchiere mezzo pieno, allora questa settimana ci lascia in eredità anche la partenza del progetto Apple a Napoli con i corsi di formazione dei futuri tecnici eccetera eccetera. Fa impressione, no, se pensiamo un po' al sud come lo descriviamo sempre, con grandi difficoltà. Pensare che la più innovativa azienda al mondo, una delle più grandi, si insedi proprio a Napoli. Il Sud riparte o è un effetto, un'illusione ottica? No, fa impressione assolutamente se si considera l'insieme dell'operazione. Cioè le grandi aziende creative hanno una parte di loro, una parte dei loro cervelli, diciamo, come metastasi quasi, diffusa in tutto il mondo, soprattutto nelle zone dove si trovano laureati a buon mercato, come nel caso italiano l'area di Napoli. In effetti non si sposta quasi nulla di queste grandi aziende, nulla di quello che si farà a Napoli è autonomo rispetto alla casa madre. Sono pezzi di attività che vengono decentrati nei posti meno costosi, come alcuni imprenditori italiani vanno in Romania o vanno in Cina, né più né meno. Non è un indicatore di sviluppo, è un indicatore di sottosviluppo per certi versi. Poi naturalmente per noi è utile, ma pensi al caso di Napoli, perché noi non solo abbiamo pochi laureati, ma abbiamo il numero chiuso, che è una follia. A Napoli nelle settimane scorse si sono fatti i test per l'ingresso all'università. Nelle materie scientifiche, non sto parlando di giurisprudenza o lettere, nelle materie scientifiche in ogni facoltà, perché so, biologia e così di seguito, c'erano non più di 1.000-1.500 posti disponibili con 3.000-4.000 candidati. Addirittura si voleva iniziare un corso di medicina in lingua inglese, c'erano 33 posti disponibili e più di 300 postulanti. Quindi noi stiamo rovinando, stiamo respingendo, stiamo avvilendo una possibilità enorme. Noi andiamo verso un mondo in cui il 100% della popolazione adulta deve essere laureata, non per il lavoro, ma per la vita. Laureato, giusto, questo mi sembra giusto. Giornale, non so se è chiaro. Certo. Quando nella metà, alla fine dell'Ottocento, il ministro Baccelli propose la quinta elementare obbligatoria, l'obiezione che fu fatta, che ce ne faremo di tanti alfabetizzati? E la risposta del ministro fu, saper leggere e scrivere serve per la vita. Ecco, oggi nella Italia, nell'Europa, nel mondo di 120 anni dopo, serve per la vita una quantità di studi che più o meno equivalgono alla laurea, altrimenti non si riesce a vivere, non si riesce a spostarsi, un paese non riesce a realizzare le riforme e così di seguito. La nostra crisi, la crisi italiana, è data alla carenza patologica di formazione. Cioè, io starei ad ascoltarlo così, De Masi, a fino ruota, alle 10. Fino alle 10. Senta, però le faccio anche questa domanda che non c'entra nulla. Voterà lei al referendum il 4 dicembre? Referendum certo sulla... che voterà, no. Io voto sempre. Vota sempre. Cosa voterà? Non so se l'ha già detto pubblicamente. Allo stato attuale sono propenso per il no. Sto seguendo tutti i dibattiti, tutto quello che sta cercando posso, un motivo per cambiare idea, ma non l'ha trovato. Sto cercando un minimo, per ora non l'ho trovato. Bravo, e vabbè, no, bravo. Anche perché, no, credo che se vincesse il no, sicuramente il giorno dopo Renzi si dimetterebbe, sicuramente il giorno ancora successivo Mattarella lo chiamerebbe e gli ridarebbe l'incarico. Ah, quindi immagina già la pantomima, no? La classica pantomima, certo, all'italiana, certo. Dimissioni per poi essere richiamato come Salvatore, però spero una cosa, che il nuovo governo abbia tutti i ministri laureati, perché noi in questo governo abbiamo ben due ministri importantissimi. E dai, insiste, non De sempre. Masi insiste, però posso io dire, ce n'ho in mente almeno uno che non è laureato. Non sempre la laurea però è un attestato di essere una brava persona o intelligente, devo dire. Però non laureata, anche bravissima, se avesse la laurea sarebbe un poco meglio. Va bene, in realtà secondo me lei ci ha dato un insegnamento migliore al di là della questione della laurea, il fatto di dire al momento sono per il no ma sto seguendo tutti i dibattiti, perché forse certo. Il più grande pericolo in questo momento è una stragrande maggioranza di persone che hanno già deciso come votare, perché in realtà non votano sulla riforma ma votano su altro. Bravissimo. Sulle antipatie di Renzo, sulle antipatie a Salvini o sulle antipatie Bravissimo. A qualcun altro, e questo mi sembra l'unico vero pericolo, nel senso che ognuno voti ovviamente quello che vuole ma si informi. Ci sono due mesi, sono anche lunghissimi, se possiamo, sì, sono già iniziati. Posso suggerire un mezzo di informazione rapidissimo, certo. È quello di aprire internet e leggersi il testo della Il testo della riforma non ci vuole molto tempo, bastano 20 minuti. Mi sembra un consiglio di una precisione tale che Non poteva non arrivare dal professor De Masi. Sì, però è precisissimo, perché forse in questo momento moltissimi si stanno dicendo: ma io sto parlando al bar di Costituzione da mesi, ma non l'ho mai letta. Sì. Ah, ci vogliono solo 20 minuti? Quindi sì, la ringraziamo molto, professore, condivido in pieno. Leggiamo tutti perlomeno che cosa stiamo andando a votare, e poi ognuno voti come crede. Grazie De Masi, buona domenica. Grazie a voi. Grazie buona mille. Domenica. Buona domenica. 800 24 0024 se volete intervenire su alcuni degli argomenti toccati da De Masi, o se volete indovinare il personaggio della settimana, che è fedele e è finito al centro dell'attenzione. Vi aspettiamo. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Diciamo no alle Olimpiadi, però ci aspettiamo che i soldi ce li diano comunque. Allora hai la sensazione che la signora sia sindaca a sua insaputa, cioè nessuno le ha spiegato che i soldi delle Olimpiadi, il Comitato Olimpico Internazionale, come si chiama, li dà se si fanno le Olimpiadi, non è che li dà a prescindere. Sono un uomo che mantiene una sua sensibilità adolescenziale, nonostante le immagini. E che vi devo dire, vedere quella immagine sul tetto di Roma, sulle tegole, mi ha riportato a Leopardi, sa vaghe stelle dell'orsa, io non credei a tornare ancora per uso a contemplarvi. Come si fanno a commuoversi? Cioè, se non fosse presidente di una regione e se non fosse un uomo che le cui sorti dipendono le sorti anche di tutti i cittadini della campagna, De Luca sarebbe un genere da sentire così, a sé stante. Poi può piacere o non piacere. Adesso stava commentando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con punte non celate, mal celate di odio e profondo disprezzo. Cittadini, amici però della campagna, se volete chiamarvi per lamentarvi tutta la vita di De Luca, siamo qua. Poi però, se volete anche ridere con noi delle sue uscite o anche no, siamo qua lo stesso. 800 24 00 24. Abbiamo in linea Gianfranco, anzi no, prima voglio fare Gabriella che ci chiama da Brescia, prima le donne. Gabriella, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sono molto emozionata. No, perché? Ci ascoltano poche persone. Ah, io vi ascolto sempre la mattina, sono fedelissima anch'io. È perfetto, è lei il nostro personaggio allora della settimana. Sta arrivando, sta montando. È svelato, signora, ha preso un giro largo, Gabriella, però sta arrivando. No, do la risposta? Sì. Certo. È forse Fedele Confalonieri? Fedele Confalonieri, ci dica qual è la quale notizia, esatto. Braccio destro di Berlusconi che si è esposto, quindi centrodestra, che si è esposto verso il sì al voto del referendum. Quindi la notizia c'è, mi chiedevo, fedele, quindi centrodestra, certo, perché è il braccio destro, stava dicendo, perché lì forse c'è una battuta da qualche parte da cogliere, è così. e poi soprattutto perché abbiamo dato come secondo indizio è fedele e c'è un po' cascata proprio dentro, per dire, cioè è fedele, no, certo. Lei dice fedele con Falonieri. Ma l'abbiamo fatto apposta per lei perché volevamo sentirla, la ringraziamo moltissimo, non è il personaggio che avevamo scelto, ma adesso quasi ci spiace un po'. Ecco, vabbè, anche a me tanto. Complimenti a voi. Ci richiami molto volentieri, buona domenica. Vedi, io per esempio che con Falonieri avesse detto per il sì al referendum, io me l'ero persa questa notizia. E quindi il gioco serve anche a questo, certo. A fare questo ripasso. Gianfranco da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre anch'io. Grazie mille. Grazie Gianfranco. Sono qui per... posso dire? Certo. Per me è il signor Caprotti. per Bernardo Caprotti, certamente. Beh, la notizia la sanno anche i muri, sua morte. La sanno anche gli scaffali, volevi dire. Anche gli scaffali di tutti, non solo dell'Esselunga, anche delle Coop. Quindi non è. Diciamo che non è. Però possiamo Gianfranco. Dare un pezzo di indizio qua, insomma, che ci è andato vicino. Possiamo dire, ho meno detto, chiedo scusa. Sì, facciamo così, diamo un altro indizio, diamo un altro indizio per chiudere, perché abbiamo ancora 20 minuti. E vado con l'indizio che avevamo pensato, nonostante la telefonata che è appena arrivata, ed è questo l'indizio. Il nostro personaggio ha avuto sia una notizia buona, sia una notizia cattiva, contemporaneamente una cattiva notizia e una buona notizia. 800 24 00 24. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Allora, salutiamo e diamo il benvenuto anche a lei, e spero di pronunciare bene il nome, è una signora polacca, Agnieszka Zakrewicz. Può darsi che abbia indovinato, Agnieszka? Buongiorno. Agnieszka Zakrewicz. Difficilissimo, però la pronuncia. Ho sbagliato l'accento, me lo ridici? Agnieszka Zakrewicz. Agnieszka Zakrewicz. Agnieszka, che ci viene più facile, corrispondente in Italia per giornali e media polacchi. Lei è anche scrittrice, sì. E tra l'altro ha anche scritto da molto un libro, I labirinti oscuri del Vaticano, perché anche di questo si occupa. Con Agnieszka vogliamo però parlare di questo momento particolare della Polonia, dove un diritto che è una conquista del mondo femminile degli ultimi decenni è stato seriamente messo in discussione, perché insomma il governo in carica voleva sostanzialmente vietare ogni forma di interruzione di gravidanza. Poi c'è stato un grande movimento di piazza, di donne, anche dei partiti conservatori tra l'altro al governo, che non intendevano assolutamente rinunciare a tutto questo, e le cose stanno cambiando. Però ci racconti intanto come mai questo progetto di legge, come nasce questo progetto di legge così severo su questo tema? Magari insomma le notizie non sono esatte, queste tutte qui. Cominciamo dall'inizio. Sì. La Polonia ha avuto già una legge molto liberale, come all'epoca, già nel 1932, perciò è stata una legge insomma che all'epoca era molto più avanti di tutti i paesi occidentali, questa legge liberale che permetteva anche interruzione nel caso di violenza, è stata frutto di purtroppo troppi aborti clandestini. Con occupazione tedesca in Polonia è stato permesso di fare aborto in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, e questo era una forma di prolungamento delle leggi razziali e di politica eugenica. La legge comunista del 1956 era molto, cioè era occidentale, cioè in fondo così come... Agnieszka è entrata in modalità Wikipedia, è entrata in modalità... Sì. E arriviamo all'80, arriviamo al 93, sì. In cui è stata in vigore la legge vigente in quel momento, la sì. Quale è una delle leggi più severe. Più severe. Si parte Europa. Da questo. E col timore che rinascano gli aborti clandestini, sì, rischio per la vita anche delle donne coinvolte, e insomma le mani sul corpo delle donne di nuovo. Sì, certamente è stata una volontà in quel momento di cercare di portare in Europa una mentalità e una legge molto più arretrata per entrare poi magari insomma anche fare le battaglie. Poi sappiamo che la Polonia è un paese molto cattolico, quindi c'è anche forte questa sensibilità. Poi però arriviamo ai giorni nostri, cioè a poco tempo fa. Abbiamo già una legge in Polonia abbastanza severa sull'interruzione di gravidanza, e poi c'è un progetto di legge del governo che vuole praticamente impedire in quasi tutti i casi, compresi nei casi di violenza. Raccontaci questo progetto di legge. Guardi, al mio avviso il progetto di legge, il quale è stato di progetto popolare introdotto da un ordine dei giornalisti, dei medici e di professionisti cattolici, di giuristi cattolici, di Ordo Iuris, questo progetto in realtà prevedeva completa impossibilità di interruzione di gravidanza con pene da 3 a 5 anni a chi procura l'aborto. Non è vero invece che sarebbe stata punita la donna la quale perde gravidanza nel modo spontaneo. Questo insomma non è stato, però per un attimo pensava che tanto le pene quanto impossibilità di interruzione sarà completa. Comunque è una legge, è una legge al di là del progetto di legge. E soprattutto, come giustamente sta ricordando, è un'iniziativa popolare, perché questo mi sembra importante. Non è che è un partito che ha detto adesso finalmente ci mettiamo e vietiamo l'aborto, ma è partita da un'iniziativa popolare, giusto? Sì, nasce c'erano due iniziative popolari, una Salviamo le donne, presentata dalle donne che andava con la liberalizzazione in direzione occidentale, e un altro progetto di questa associazione transnazionale, il quale ha potuto presentare in Polonia questo progetto giuridico, perché è un'associazione piuttosto dei giuristi cattolici. Ed è stata approvata. No, a questo punto succede che c'è una grande levata di scudi, manifestazioni, tantissime persone che scendono in piazza, donne, e si schierano anche delle donne appartenenti ai partiti, al governo, a partiti conservatori. No, questo non è assolutamente vero, non si sono schierate, in quanto insomma abbiamo letto male sui giornali, ma ci sono state però delle manifestazioni, qualcosa sono è successo. Sono state le manifestazioni in piazza, sono scese almeno 100.000 persone. La manifestazione che è stata chiamata il lunedì nero è stata su modello islandese, perché anche le donne nel 75 islandesi per bloccare la legge sono scese in massa in piazza, ma piuttosto hanno smesso di fare le mansioni quotidiane, il lavoro. Qui abbiamo avuto una grandissima protesta, ma abbiamo anche avuto la protesta bianca, di cui si parla poco, perciò una parte delle donne, vestite di bianco, era contrario ai diritti delle donne e voleva la legge così come è. Invece, fatto sta però, perché non abbiamo più moltissimo tempo, vogliamo arrivare all'ultima notizia. La notizia è che il governo pare che abbia fatto ha ritirato il progetto di legge. E lì effettivamente questo è avvenuto con i voti anche delle donne del partito, ma al governo, ma ho promesso che molto presto introdurrà una nuova legge che vieterà l'aborto, ma magari meno severa. Ecco, ma quello che mi chiedo, visto che siete sono andate in piazza e sono riusciti a bloccare questo orrore di legge che avrebbe vietato completamente, totalmente l'aborto, già che siete in piazza, non si può rimanere in piazza e far magari modificare anche la legge che comunque è iper restrittiva in Polonia? Guardi, ci provano tutti, veramente le donne, insomma, polacche, come si dice, non chiudono gli ombrelli, perché ricordo che questo lunedì era molto piovoso e sono uscite tante donne con gli ombrelli, e questo ombrello è diventato anche il simbolo, un segno, un simbolo, certo, che manifesta. Però cioè, le piazze, quando c'è una maggioranza al governo, non possono fare tanto. Questo è un esempio di questo, quanto bisogna rimanere vigili, e che i diritti delle donne, che sembrano acquisiti, in realtà non sono così, perché certo, una marcia indietro ci può capitare così improvviso, insomma, in qualsiasi momento. Agnieszka, ecco, noi dobbiamo dare la linea naturalmente al traffico, siamo verso la chiusura, però ci vogliamo lasciare con questa immagine degli ombrelli aperti, che mi sembra molto bella. Intanto grazie per essere stata con noi e averci raccontato questo momento particolare che sta vivendo la Polonia, una situazione complicata nella quale però al momento la legge che vietava completamente l'aborto è stata ritirata. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco. Andiamo con Ottavia, che ci chiama dalla provincia di Lecco. Buongiorno e benvenuta, Ottavia. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Cosa volevi intervenire? Volevo intervenire per il personaggio misterioso. Siamo tutto orecchi. Germana Chiodi. In arte? In arte, braccio destro di Caprotti, segretaria storica di Caprotti, che ha ereditato credo la metà dei suoi risparmi. È fedele, è stata fedele. L'applauso è per la metà dei risparmi. È finita al centro dell'attenzione e naturalmente ha avuto una cattiva una notizia ma anche una bella notizia, perché lei è entrata nel testamento, aveva già ricevuto da Caprotti, credo, una donazione tempo fa. Questa volta è finita direttamente nel testamento, gli ha lasciato una parte cospicua dei risparmi. Il 50% dei propri risparmi liquidi, cosiddetti, diciamo, i conti correnti. Però appunto aveva già ricevuto 10 milioni poco fa. Però la brutta notizia è anche che è finito sul rapporto di lavoro, se vogliamo, da un certo punto di vista, e forse sono anche segretarie che non esistono più, insomma, 50 anni a servizio dello stesso dello stesso lavoro. È una fedeltà, è una storia specchiata, particolare. Io non conosco i dettagli di questa vicenda, anche perché la signora Chiodi è sempre rimasta nell'ombra, non è mai uscita tanto allo scoperto, ma del resto lo stesso Caprotti ci teneva a non uscire sui giornali più di tanto, insomma, e quindi non sappiamo quale sia la storia che la legava a Caprotti. Ma tant'è, entrare nel testamento di un magnate come Caprotti mentre sono i figli quasi a essere messi in discussione in questo testamento era una notizia sicuramente. Ottavia, ti porti a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. Complimenti, ciao, grazie per aver giocato con noi. Sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth. È con noi il coordinatore del Comitato Promotore della Marcia per la Pace, Flavio Lotti. Buona domenica. Buona domenica a voi. Buongiorno. Già al posto di, stavo per dire, di combattimento, però insomma. No, combattimento dire, no, è la pace. Ma questo è un segno brutto. È un segno del destino, è un segno brutto. No, perché il nostro linguaggio certo. È un linguaggio che si mescola molto spesso, scontro, conflitto, insomma sono pezzi delle parole di tutti i giorni. È vero, siamo guerrafondai nel DNA ormai. Fine linguaggio, dovremmo starci più attenti. Flavio, sì. Raccontaci un po' come vi state preparando per l'appuntamento di oggi. Ma guarda, siamo già in cammino ormai dalle 7 di questa mattina, quando i pullman da tutte le parti d'Italia, per l'esattezza noi abbiamo contato pullman da quasi 500 città italiane, 486 per l'esattezza, pullman di giovani, di scuole, sono 118 le scuole italiane che hanno deciso di partecipare, di fare oggi un giorno in più di lezione, una giornata speciale di lezioni di pace e di esercizi di pace. E poi ci sono 278 comuni, province e regioni italiane ancora qui a rappresentare l'impegno delle locali, si può fare e si deve fare all'interno delle nostre città. E poi tantissimi gruppi, sì, persone, famiglie, insomma, arrivati da bene, ogni parte. Ma la domanda cruciale, Flavio, è com'è il tempo oggi lì? Qui adesso, diciamo, il tempo è buono, diciamo. Ecco, questo è importante. Guarda, l'abbiamo fatta anche sotto la pioggia. Lo so bene. E un mese fa l'abbiamo fatta addirittura di notte, l'abbiamo voluta fare di notte per segnalare il pericolo grave che stiamo vivendo in questo tempo, insomma, il buco della ragione che purtroppo oggi si sta portando ad assistere alle guerre, alle tragedie, alle stragi. Di migranti, di insomma un dolore enorme che sta crescendo nel mondo e al quale non stiamo dando le risposte necessarie, le risposte giuste, insomma. Siamo qui appunto per camminare, per cercare di reagire a questo senso. Vi auguriamo un buon cammino, noi siamo qui ma come cammino. Se fossimo lì. Grazie Flavio Lotti della Marcia per la Pace. Perugia Assisi, noi dobbiamo chiudere, un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Carmelo Lauricella oggi in regia. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, un grande abbraccio da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, ciao, buona domenica anche chi ci ascolta in podcast.